Il Tea Party del Mago. C'era una volta, in un regno lontano chiamato Arcipelago Monotono, un re di 14 anni chiamato Re Triste. Re Triste aveva cambiato il nome del regno, che una volta si chiamava Isola Gioiosa. Ah, tutto in questo regno è così noioso e brutto. È il posto più barboso di questo mondo. Le balie e i consiglieri provarono di tutto per tirarlo su di morale, ma nessuno ci era mai riuscito. 5 isole rotonde in fila. Se almeno alcune di loro fossero quadrate, sarebbe già qualcosa. Alzandosi e sentendosi dispiaciuto per se stesso, il re sentì la voce di una bambina che cantava una canzone singolare. Din don, non metterci molto. Triste, triste, vieni a giocare. Din din din, affrettati re, ho qualcosa di bello per te. Din din din, un vero re non mi farebbe cantare tutto il dì. Re Triste, nel sentire la canzone, fu elettrizzato dall'eccitazione. Corse fuori dal suo palazzo e poi giù per la collina, verso la voce. Nello stesso istante, la bambina vide il re e gli corse incontro. Eri tu a cantare la canzone? Da dove vieni e chi sei? Cielo, il re ha tante domande. Mi chiamo Sguardo Lieto. E sì, sono io che ti stavo chiamando. Oh, ma perché mi stavi chiamando? Il mago, che vive un po' lontano da qui, mi ha detto di cantare la canzone per te. Io non conosco nessun mago. Davvero, davvero? A che serve essere un re se non conosci tutti quelli che vivono nel tuo regno? Re Triste chinò il viso per la vergogna. Povera me, non sei molto felice, vero? Perché dovrei essere felice in questo regno triste e noioso? Di cosa stai parlando? Il tuo regno è il regno più bello di tutto il mondo. Sciocchezze! Vieni su per la collina con me e ti mostrerò com'è davvero il regno. Il re e la bambina corsero rapidamente verso la cima della collina. Una volta raggiunta la cima, guardarono il regno. Ecco, hai mai visto qualcosa di così noioso? Noioso? Guarda come brilla il sole sui campi di grano. E guarda tutti quei fiori rossi e blu. Rossi? Blu? Vedo solo fiori grigi. Bene, che dire del mare? Devi sapere che non cambia mai. Oh, ma il mare ha così tanti volti diversi e anche così tante voci diverse. Sei una strega? No, non lo sono. Ma se lo fossi, ti farei vedere le cose in modo giusto, anziché sbagliato. Sai cosa? Perché non andiamo dal mago? E gli chiediamo di disincantarti. Re Triste non ci pensò due volte e fu subito d'accordo. I due corsero giù per la collina e presto raggiunsero le rive di un bel fiume. Lì una piccola barca rotonda come una vasca li stava aspettando ed entrambi vi saltarono dentro. È così divertente! Rovescerai la barca se non ti fermi. Siediti e dammi i remi e ti porterò lungo il torrente. Non devi fare nulla del genere, perché questa è la barca che il mago mi ha dato e ti porta sempre dove vuoi andare. Si sedettero al sole mentre la barca galleggiava pigramente. Misero le mani in acqua e per fortuna non vi caddero dentro. Fu molto divertente per tutti e due. Quando la barca si fermò, si ritrovarono sul bordo della riva. E solo un po' più avanti, lungo la spiaggia, c'era la dimora del mago. Camminarono fino alla sua caverna e trovando la porta aperta, i bambini vi entrarono. Wow! Questa è una grotta? Re Triste rimase sbalordito dallo splendido interno della caverna quando vide improvvisamente il vecchio mago seduto, sorridente, sulla sua poltrona. Sguardo lieto gli corse incontro. Ho portato il re a trovarti! Sarai un bravo mago e lo disincanterai? Il mago si alzò e strinse la mano al re, solo per farlo sentire a casa. Siete dei bravissimi bambini a venire all'ora del tè. Non mi piace prendere il tè da solo. Ora, vi piacerebbe prenderlo sul pavimento o dovrei chiamare un tavolo? Il re optò per il pavimento poiché aveva sempre mangiato sul tavolo per tutta la vita. Ma sguardo lieto, voleva vedere cosa sarebbe successo se avesse scelto il tavolo. Il tavolo, per favore! Il mago annuì e calpestò il pavimento. E un tavolino pulito insieme a 3 sedie entrarono dalla porta come qualsiasi altra persona. E si fermarono in mezzo alla stanza. Beh, non sapevo che tavolo e sedie potessero camminare. Per cosa credi che abbia 4 zampe? Il mago si mise al lavoro e accese il fuoco per preparare il tè. E i 2 bambini andarono nella credenza per prendere le graziose stoviglie e i gustosi piatti. Furono felicissimi di trovare l'armadio pieno di paste al cioccolato e torte di prugne. Il tea party fu davvero delizioso. Il mago e i bambini chiacchierarono di tutto e di niente mentre sorseggiavano il tè caldo e sgranocchiavano torte cremose. Alla fine, i 2 bambini si ricordarono perché erano venuti a trovare il mago. Signor mago, ho bisogno del tuo aiuto. C'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui vedo le cose. Certo che c'è. I goblin ti hanno gettato la polvere negli occhi quando eri un bambino, quindi non vedi le cose nella stessa luce di altre persone. Che cosa? Perché mi hanno lanciato la polvere negli occhi? Non sono stati invitati alla tua festa quando sei nato, tutto qui. Ai goblin non ha fatto piacere e solo loro sanno cosa fare. La cosa migliore che puoi fare è andare a Goblinland a chiedere loro di toglierti l'incantesimo. Ma attenzione, è una lunga strada da percorrere da soli. Verrò con te. Ho sempre desiderato andare dall'altra parte del sole. Come ci arriviamo, mago? Bene, il modo per arrivarci è di arrampicarti sul raggio di sole. O vi ci manderò con il raggio di una saetta. Tirò giù un grosso sacco etichettato tempeste dallo scaffale e vi mise la mano dentro. Sguardo lieto si avvicinò un po' di più al re, sperando che niente potesse scoppiare con un botto, e il re le mise le braccia attorno per farla sentire al sicuro. L'ho preso con entrambe le mani e non colpirà nessuno finché lo tratterete gentilmente. Ora andate in un lampo. Ma non ebbero il tempo di vedere nulla, che si ritrovarono dall'altra parte del sole. Per un momento rimasero sdraiati dove erano caduti, senza muoversi. Poi si sedettero e si strofinarono gli occhi e si guardarono intorno. Oh! Non avevo idea che fosse così. Bene, cosa ne pensi? Un goblin stava in piedi sulla sua testa, che è il modo preferito dei goblin di riposare le gambe. È piuttosto nebbioso. Nebbia gialla, no? Non penso che sia nebbia gialla. È più simile a luce solare opaca. Hai ragione. Sono le persone dalla parte davanti del sole che lo chiamano nebbia gialla. Sono accecate dal loro stesso sole. Questo è il retro del sole. Penso che mi piaccia di più il sole splendente. Che stupido! A Goblinland hai tutti i vantaggi del sole e nessuno degli inconvenienti. Niente colpi di sole o macchie solari. È buffo che non riesci a capirlo. È colpa tua. Se i tuoi amici non avessero gettato polvere nei miei occhi, vedrei Goblinland con luce splendente. Oh, caro. Quindi sei venuto qui per rimuovere l'incantesimo? Tuttavia, non può essere rimosso ora. Quindi è meglio che torni indietro. Non importa se vedi le cose in modo sbagliato. Ma è importante. È per questo che vogliamo che rimuovi l'incantesimo, per favore. Il goblin saltò da una gamba all'altra e pensò intensamente ad una soluzione. C'è solo una cosa da fare. Dovete scambiarvi gli occhi. I bambini fissarono il goblin e poi si guardarono l'un l'altro. Molto bene. E come si fa? Abbastanza facile. Tutto ciò che devi fare è desiderare con tutto il cuore di avere gli occhi del re anziché i tuoi. Ed ecco qui. Fermati. Se prendo i suoi occhi, vedrà sempre le cose in modo errato. Il re aveva parlato troppo tardi. Sguardo Lieto aveva già desiderato lo scambio di occhi e prima che se ne rendessero conto, i suoi occhi diventarono di un blu intenso e gli occhi del re diventarono di un caldo marrone. Il re si infuriò con i goblin mentre Sguardo Lieto rideva felicemente per quello che era successo. Guarda cosa hai fatto! Vedrà le cose in modo sbagliato fino alla fine dei suoi giorni! Non essere un ragazzino sciocco! Portala a casa e prova a vedere le cose tu stesso! Prima ancora di rendersene conto, erano in piedi sulla cima della collina e guardavano giù verso il regno dell'arcipelago monotono. Oh, questo è il mio regno? È così bello! Guarda come brilla il sole sui campi di grano! E guarda quei grandi tappeti di fiori rossi e blu! Non credi che sia un bel regno? Sguardo Lieto sorrise d'accordo, anche se, ora, vedeva solo 5 isole rotonde in fila. Sì, come dici tu, un regno meraviglioso. E così osservarono attraverso gli occhi dell'altro. Nel corso degli anni, Re Triste fece di Sguardo Lieto la regina delle isole monotone. E lei? Ora indossa una corona invece di un parasole. Aveva generosamente dato la sua vista al Re Triste ed era ancora felice, dimostrando che il potere dell'amore sincero e altruista porta la gioia più profonda e la felicità vera.